si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Caro Gianluca, stamattina per favore motosega senza pietà al primo accenno di luogo comune, mi scrive su Facebook Piera. Perché mi scrive questo Piera? Perché già da una mezza giornata stanno circolando i commenti, devo dire quasi a centinaia, sulla domanda che ho posto ieri sera, che oggi è l'argomento della trasmissione. Le mutazioni socio-affettive nell'Italia, soprattutto nel maschio italiano, con l'arrivo delle donne dell'Est. Le donne dell'Est rappresentano un luogo dell'immaginario sentimentale, erotico, affettivo per il maschio italiano da vari decenni. Ricordo negli anni 70 le gite aziendali che si facevano sempre nei paesi dell'Est, ma anche le gite scolastiche, in cui il maschio italiano andava provvisto di valigioni di collant di nylon, di profumi belletti, pensando che nei paesi del blocco comunista avrebbe fatto facilmente breccia nelle fanciulle del posto, disponibili in cambio di lussosi accessori che l'Occidente poteva avere, che ancora dalle loro parti erano costosissimi. Naturalmente andava sempre a finire male, perché come ci dice una delle più importanti, intelligenti economiste internazionali, che è Loretta Napoleoni, che ha scritto Economia Canaglia, fino a tutti gli anni 90 la prostituzione nei paesi comunisti era di fatto inesistente, non c'era bisogno, c'era una tale libertà, disponibilità e caduta di ogni pregiudizio, per cui non avevano bisogno di prostituirsi le donne russe, ma soprattutto era un mercato rivolto agli stranieri, ai turisti. Con lo smantellamento del comunismo, la popolazione dell'ex blocco sovietico cade in povertà e soprattutto sono le donne le principali vittime di questa nuova miseria, dice Loretta Napoleoni. Già a metà degli anni 90 la disoccupazione tra le donne russe raggiunse l'80%, mentre durante il regime sovietico era quasi pari allo zero. Le donne, tra l'altro, erano più dell'80% capofamiglia, di famiglie monoreddito, quindi nel 98 la metà dei bambini russi da 6 anni in giù vive al di sotto delle soglie della povertà, e quindi molte donne si danno al nemico per riuscire a dar da mangiare ai figli. L'83% della forza lavoro in molte regioni della Russia è essenzialmente, appunto il blocco sovietico, sull'industria tessile, e soprattutto sono le donne che sono impiegate nel tessile. Dal 90 al 94 la popolazione è colpita dal calo di produzione tessile, e quindi centinaia di migliaia di donne rimangono disoccupate. E queste donne cosa devono fare? Diventano, a un certo punto di vista, schiave di protettori, di mercanti di sesso facile, cominciano ad essere esportate come prostitute. Quindi la prima avvisaglia è quella che si vedono sulle strade o si vedono nel giro della prostituzione di lusso in Occidente queste donne bellissime, ricercatissime sul mercato, perché oltre ad essere molto belle sono anche molto colte, la maggior parte loro sono laureate, erano dirigenti, erano ingegneri, erano economiste, e quindi aumenta il desiderio di avere una donna anche molto colta. E le altre emigrano verso i paesi dove c'è più benessere, e emigrando naturalmente fanno i lavori che le altre donne non fanno più, diventano le badanti, diventano quelle che si occupano dei corpi delle popolazioni occidentali da tutti i punti di vista, curano gli anziani, curano i bambini, ma cominciano a curare gli uomini, cominciano a riempire un vuoto affettivo, un vuoto onirico, un vuoto di relazione che gli uomini occidentali sembrano non aver più maniera di esprimere, per loro incapacità relazionale, per una diversa collocazione dell'emotività femminile, per una serie di ragioni che non vorrei collocare nel regno dei luoghi comuni. Ci hanno letti abbastanza i luoghi comuni, ma vi riassumo tutti in un primo messaggio che mi è arrivato. Io ho 57 anni, sono vedovo da 10 anni e ho cercato una donna italiana. Le donne italiane non sanno più darci quello che purtroppo queste extracomunitarie, chiamiamole così, che vengono dai paesi dall'est, possono dare a noi uomini. Sono le donne di una volta, le donne italiane sono evolute, emancipate, cercano o solamente sesso, oppure sono già a posto così tranquille nella loro precedenti magari relazioni, per cui si sentono già appagate e quindi hanno già dato. Il resto è tutto da prendere. Le donne invece dei paesi dell'est sono donne che sanno dare e sanno anche prendere. Vodka. Naturalmente decine e decine di messaggi hanno confermato questa linea. Le donne occidentali non sono più donne, pretendono troppo dagli uomini, sono troppo autonome, hanno perso la femminilità, mi scrive Riccardo. Le donne italiane sono nevrotiche, impossibili. Trovatene una con la quale si possa ragionare serenamente senza ti accusi di essere maschilista, bamboccione, immaturo, risolto, mammone e così via. Sessualmente, se sei appena al di sotto di Rocco Siffredi, sei un impotente. Intellettualmente devi essere non so chi. Un Nobel, altrimenti sei uno che non capisce niente, in ogni caso sei insensibile, materiale, non capirai mai le donne. Per finire con il lamento ormai diventato un mantra, non si trovano più uomini, non si trovano più, un motivo ci sarà, e via dicendo, una serie di uomini disperati che trova improvvisamente le fate consolatrici nelle donne che vengono dall'est. L'ultima moglie, mia ex moglie, l'ultimo divorzio, è una donna russa che è andata a vivere con chi era mio amico, quindi me la trovo ancora adesso davanti e vive con chi era mio amico. Hanno avuto la loro storia, io ho avuto la separazione e poi il divorzio, quindi ho cambiato totalmente molte cose. Butta. Ed ecco poi il rovescio della medaglia: le donne dell'est sono affascinanti, sono belle, sono simpatiche, sono allegre, sono delle grandi dispensatrici di piaceri, di conforti, di comprensione, però sono traditrici, vengono da un paese dove il socialismo reale ha tolto ogni sensibilità, quindi sono delle calcolatrici, quindi prendono i nostri poveri uomini, i nostri vecchietti, i nostri mariti e li seducono, li costringono a diventare loro schiavi e poi prendono tutti gli averi. Mi scrive in questo secondo Giuseppe su Facebook, mi dice: ti dico che un mio carissimo amico, tale Maurizio, si mise per circa 2 anni con una spogliarellista rumena in trasferta qui a Roma. Beh, sono più i soldi che questa gli ha succhiato che l'amore che ha dato, perché lo dare l'amore a un signore che si prende una spogliarellista? Pensa che Maurizio, conosciuta in un night, pensa questa si deve innamorare di lui probabilmente. Pensa Maurizio mantenne pure il di lei fratello venuto a soggiornare in hotel a Roma con la scusa di trovare lavoro. Dopo 2 anni e vari prestiti chiesti a conoscenti, strozzini, amici, sì, anche a me, scemo che pure glielo dati, Maurizio ha aperto gli occhi e ha troncato la storia. Beh, 800 24 00 24, ne abbiamo dette abbastanza. Beh, siete qua, raccontate la vostra esperienza personale, dolorosa, passionale, oppure nella cerchia stretta dei vostri amici, di rapporti tra uomini italiani e fate dell'est. A teper a samih devoshkakh. Le donne dell'est stanno colmando ogni realtà, fisica e immaginaria, di una gran parte di maschi italiani. Sono russe, bielorusse, ucraine, ma anche polacche, rumene, lettoni e moldave. Possono chiamarsi Svetlana, Nadezhda, Ludmila, Irina, Olga, Tatiana. Dal volto quadrato, i fianchi generosi e i denti smaglianti. Buone per tutto quello che gratifica i nostri corpi di maschi mollicci e delicati, capaci di curare le nostre piaghe da decubito, pulirci il sedere senza schifarsi, lavarci, vestirci, e quando arriva l'ora, comporci con l'abito buono e le mani incrociate, pronti all'ultimo viaggio. Non solo, ma le stesse Anastasia, Alena, Ludmilla, occhi color ghiaccio da gatte delle nevi, seni di granito e labbra di corallo, sono capaci di farci tornare all'occhi innamorati anche dopo i 50. Con loro siamo tutti Casanove irresistibili, padroni di casa ancora sensuali e virili, a dispetto dei nostri matrimoni logorati. Sono le fate salvatrici che vengono dall'est. Per il miracolo di renderci la regalità di maschi, ci chiedono poco in fondo, qualche briciola del nostro benessere. Devo dire che Paolo Corleoni ha dato il meglio questa mattina, mettendo addirittura la voce della moglie Nina nella sonorizzazione di questa scheda, e Fabrizio Intonti, che non ha russo o bielorusso a disposizione, guarda sconsolato. 800 24 00 24. Le donne russe, le donne dell'est si prendono cura dei nostri corpi, corpi dimenticati, corpi stazionati, corpi vilipesi. Se ne prendono cura sin dalla nascita, sono le babysitter dei nostri bambini, sin dall'età adolescenziale adulta sono il sogno erotico dei nostri adolescenti, sono la digressione dalla retta via dei nostri padri, sono il conforto infermieristico dei nostri nonni, che va anche oltre l'occuparsi delle loro funzioni corporali. А сейчас о девушках, которые приезжают сюда в поисках работы. La badante dell'Est facilmente forza il suo ruolo. Spesso è una donna di istruzione superiore. Acquisisce velocemente dati e informazioni sui meccanismi che regolano ogni aspetto finanziario delle nostre famiglie. Quando i parenti si mettono in mezzo tra la generosità dell'assistito e la badante, sono loro stesse a chiedere l'intestazione di fondi assicurativi, molto più discreti e intoccabili da parte dei legittimi eredi. Le cronache pullulano di beghe giudiziarie e di familiari che vorrebbero interdire il padre o il nonno prima che metta a rischio la loro eredità. Scatta inesorabile la molla seduttiva anche per gli sposati, perché queste donne rappresentano situazioni perdute dall'eccitamento erotico alla felicità coniugale. Dopo un ménage familiare ormai nella fase di congelamento, nasce il patto sociale basato sullo scambio e le donne slave regalano agli uomini italiani una seconda giovinezza. In cambio, chiedono la solidità economica e sociale. Gli uomini si innamorano, mollano la famiglia, se le sposano e fanno con loro una nuova figliolanza. Любовь зла, полюбишь и козла. Secondo i dati Istat, i matrimoni misti in Italia nel 2006 sono stati 34.000, quindi il 14% totale dei matrimoni. Nella metà dei casi erano uomini italiani che sposavano prevalentemente cittadine dell'Europa dell'Est, quindi esiste statisticamente questa forte influenza di nuove famiglie che si ricompongono. Quali sono le ragioni per cui gli uomini italiani scelgono le donne dell'Est? Le donne dell'Est abbiamo capito, quali sono le ragioni per cui vengono da noi? Non credo che abbiano al colmo delle loro aspirazioni prendersi noi, flaccidini, sudaticci, schifosetti, svuotati di ogni appetibilità. Loro sono belle, hanno occhi da cerbiatte, hanno occhi verdi bellissimi, sono bionde, sono alte, dei corpi splendidi. Perché prendono noi? Ecco, questo è il rovescio della medaglia, perché hanno bisogno di benessere. Abbiamo al telefono uno scrittore, Antonio Pascale. Antonio Pascale, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, tu sei noto, famoso e passi alla storia in quanto interprete della tua terra, sei casertano. Da lì abbiamo il primo nucleo, la prima avvisaglia di questo fenomeno. Ormai penso che si parli di una decina se non più di anni fa. In particolare nel Casertano furono le prime donne russe a mettere gli occhi sugli uomini italiani, in particolare Trento la Ducenta, ricordo un paesino dove il sindaco è stato costretto a fare un'ordinanza perché le donne del posto non ne potevano più, sono andate a protestare come fossero state le amiche di Lisistrata dal sindaco: aiutaci, liberaci tu da queste donne qua. Ecco, possiamo tracciare una sorta di genealogia del matrimonio fra uomo italiano e donna russa? Voi siete stati così precisi nella vostra ricostruzione filologica che io adesso non so davvero cosa dire, no? Perché... No, ma racconta il vissuto. Prendiamo la famiglia tipica della provincia casertana, con un benessere medio, padre... Medio-alto, sì. E appunto Caserta, e a un ceto sociale formato o da impiegati oppure per la maggior parte da un ceto di commercianti, commercialisti, avvocati, dottori, eccetera. Stanno benino, diciamo. Sì, insomma, si sta bene, una città abbastanza ricca. Bene. No, mi fa piacere, lo sai, Pascale, perché in questi giorni non sono uno che vuole minimizzare, se ne parla soltanto in termini di casalesi. Esiste una borghesia casertana che ha il suo benessere senza aver bisogno di spacciare eroina, ecco, per capire. Sì, sì, no, sono apparente, ma cocaina se lo spaccio. Ah, cocaina. L'eroina è finita negli anni 70, adesso è soltanto una fascia del rituale domizio che ne fa uso. Comunque, insomma, questa è la composizione. Ovviamente... è una famiglia allargata, si vive spesso vicini ai genitori e quando i genitori si fanno anziani può capitare che qualcuno di loro abbia dei malanni, dei seri malanni. Senti Pascale, ma siccome nessuno è santo, esisteva una sorta di ammortizzatore sociale per compensare le digressioni coniugali e mantenere quest'ordine costituito prima delle russe? Sì, guarda, guardi, nei paesi... No, se lei mi dà del lei, devo darle... Sì, scusami. Senti, nei paesi da tanto tempo esisteva la figura della cosiddetta commarella, che appunto è una specie di amante ufficiale, riconosciuto un po' dalla comunità. Ecco. Cos'è, la parrucchiera di coscia svelta? La parrucchiera, no, anticamente erano donne rimaste sole, magari col marito perso in guerra o per qualche accidente così tragico, e queste donne erano rimaste sole, magari erano donne intelligenti, con la loro indipendenza. Consolatrici dei maschi sposati. Sì, sì, ma c'era anche le cognate, avevano questo ruolo nei paesi. Allora, c'era uno poi pensa che la società antica abbia represso il sesso, ma non è vero, poi basta leggere i bellissimi libri di Foucault per capire che il sesso non è mai stato represso, la volontà di sapere era repressa, ma non il sesso. E infatti, insomma, nei paesi si faceva quello che si fa anche adesso. Ecco. Però si faceva con le donne libere, le donne sole, che avevano questa funzione. A un certo punto cos'è successo, Pascale? Successo a metà degli anni 90, insomma, inizio anni 90, con la caduta del muro, l'avete spiegato molto bene, con la caduta del muro cominciano ad arrivare le prime donne che all'epoca si dicevano fossero polacche, cioè erano identificate sotto il nome in senso lato di polacche, arrivano le polacche, e che le prime occupazioni che facevano erano quelle di cameriere, erano le cameriere. Poi ovviamente in casa erano abbastanza brave, ci sapevano fare, anche perché poverine, venendo qui avevano lasciato la propria famiglia su. Sempre storie disastrate, mariti alcolizzati che le picchiavano, le bastonavano, poliziotti. Che poi chiedevano continuamente i beni di consumo occidentali, quindi loro lavoravano anche il doppio per permettere ai figli o ai mariti di avere un benessere uguale al nostro. Ecco, vediamo qual è stato appunto l'anello di congiunzione tra la realtà provinciale italiana e la realtà che veniva dai paesi dell'est, per cui è scattata la scintilla e è iniziata questa partenogenesi affettiva. La polacca come ha incontrato il padre di famiglia che si consolava con la cognata e come è nato il disastro rovina famiglia? Sì, ma poi non è nato un bel niente. Comunque diciamo che era la quantità di persone che arrivavano a far pensare al casertano medio, all'italiano medio, che a quantità corrispondesse disponibilità, no? E poi le polacche si incontravano fra di loro la domenica mattina del loro giorno libero nella villa comunale, e allora c'era anche uno sciamare di persone che venivano dai paesi. Ti interrompo un attimo, Pascale, perché vorrei far sentire solo velocemente Marilena prima della pausa. Ci sentiamo dopo la pausa. Marilena, e salve, porti la sua sofferente testimonianza. Volevo semplicemente dire che tra tutti i miei amici che hanno sposato ragazze russe, polacche, cioè comunque ragazze dell'est... Molti ne ha lei di amici? Ma a due o tre, sì, parecchi, cioè rispetto diciamo a tutto il resto degli amici sono una buona percentuale. E volevo far notare che tutte queste ragazze hanno smesso di lavorare. Cioè la ragazza italiana con tutti i difetti del mondo, cioè dopo il matrimonio continua a lavorare sia in casa sia fuori. Queste ragazze no, hanno incominciato a sfornare bambini, comunque non è mai stata contemplata l'idea di tornare al lavoro, di fare quello che facevano prima. Beh, evidentemente, che età sono i ragazzi di cui lei sta parlando? Sui 30-40 anni. Quindi ragazzi giovani, non famiglie spezzate, rovinate, anziani turlupinati. No, è quello che mi ha un po' stupito. Scusi, ma perché i suoi amici hanno fatto questa scelta? Perché se non innamorati. Ma non è che i suoi amici vogliono delle donne che stiano in casa, delle sane casalinghe? Lo fanno solo con loro, perché con noi, cioè, allora, con noi italiani, ma non è che vuole... No, se io voglio confezionare il luogo comune che emerge dai messaggi che mi hanno scritto, cioè, finalmente le donne che stanno in casa ci ridanno la tranquillità della donna di casa, e questo volevano i suoi amici? No, secondo me no, sono più furbi di noi. Vabbè. Correre, leggere, uscire, stare in casa, la campagna, film, se sono buoni. Intelligente e naturale, gentile, bella, magari, ma non è essenziale. Una con cui si può parlare veramente. Trovo che comunicare sia vitale. Io viene da Mosca e cerco marito perfetto. Più vecchio di Me? Non più di 5 anni. Здравствуйте, меня зовут Анна, я из Санкт-Петербурга. Non voglio un coso grasso. Non mi piacciono gli spilocci. Johnny Depp. Passionale e affascinante. Che vuole fare una famiglia, che ama bambini. С своими друзьями. Faccio cose pazze, cerco qualcuno che doma me. Mi piacciono Earth, Wind and Fire, mio gruppo preferito. Questo era un divertente film del 2001, Bearded Girl, dove Ben Chaplin è un ragazzo inglese che prende tramite internet una ragazza russa, Nadia, che è Nicole Kidman, e la fa venire da lui. Dunque, se ci pensi, l'Inghilterra è solo una piccola isola. So che questo ti dà 20 milioni di ragazze tra cui scegliere, ma se vivi in una cittadina e lavori fino a tardi, non avrai mai la possibilità di conoscerle tutte. Non ho mai creduto alla storiella che uno si innamora della ragazza della porta accanto. Tanto per cominciare, mai avuto una ragazza della porta accanto. Ma dove è scritto che devi incontrare l'amore della tua vita al supermercato di zona? Non molti, considerando la cosa, capirebbero ciò che sto facendo. Lo troverebbero un po' triste. Naturalmente a lui andrà male, poi la Kidman in realtà era il terminale di un'organizzazione criminale che prendeva giovani polli e poi li spennava. C'è sempre una valenza terrorifico, moralistico, etica in questi tipi di film, ma è una situazione abbastanza generalizzata anche alle nostre latitudini. Abbiamo sentito la testimonianza della nostra ascoltatrice che parla di alcuni suoi amici che hanno sposato queste ragazze dell'est, che fanno le brave massaie, le mamme di famiglia, non vanno a lavorare. Per loro probabilmente è un vantaggio. 800 024 0024. Oggi parliamo della calata delle donne dell'est. Mi spiace che Tommaso dica che questa è una trasmissione dalla inaudita generalizzazione. Dice, oggi voliamo bassissimo, Nicoletti. Casi specifici e storelle della bar, ma davvero possiamo ridurre a queste descrizioni un insieme così gigantesco di persone? Quanti di voi sono stati per più di 20 giorni e non per turismo sessuale in questi paesi? Reputate esperti, generalizzate cose che non conoscete, ma in un'oretta di programma scarsa, di programma radiofonico dedicato al costume, alla società, alle sfumature e a... il tentativo di portare il sentito dire, la voce comune, ciò che si sente dire alle altre persone in dati leggermente più strutturati, non si può essere esaustivi. Stia tranquillo, ci ascolti, si lasci andare al flusso. Abbiamo al telefono Antonio Pascale che ci conclude velocemente quello che mi sembra originale, invece, che noi abbiamo tracciato il punto zero di questo fenomeno. Tutti danno statistiche, danno dati, mostrano cronache di grandi retate di donne russe, lacrime di mogli tradite, abbandonate, di uomini che con il capino cosparso di cenere tornano in famiglia, ahimè, con le ammaccature, questi amori andati a male, ma raramente ho sentito parlare di dove è nato il fenomeno. Pascale, concludiamo. Sì, insomma, poi in metà degli anni 90 cominciano ad arrivare, arrivano abbastanza e naturalmente vengono prese inizialmente per i lavori familiari e poi dopo un po' diventano anche infermiere, soprattutto delle persone anziane, dunque si stabilizzano, cioè stanno a casa, no? Stanno a casa. Soprattutto, e da qui comincia a nascere... È un arco generazionale di corpi maschili di cui loro si occupano, questo è importante. Questo è molto importante e comincia a nascere l'immaginario ovviamente che queste persone si erano messe nelle case, nelle proprie case e in qualche modo stavano tramando, dunque ci ricolleghiamo ai film, insomma, no? con trama thriller verso il noir, ma in realtà la maggior parte di loro ha lavorato duramente proprio sul corpo maschile. E cosa avviene? Adesso vediamo il momento della rottura. L'uomo italiano capisce che la badante è qualcosa di più che una badante, ha una sorta di antica e quasi misteriosa magica sapienza ed esperienza sul suo corpo e quindi lascia la famiglia. No, insomma, c'è stato dei casi in cui i problemi con le mogli erano già molto forti e dunque una disponibilità in attesa ha fatto sì che le famiglie si dividessero, insomma, ci fossero dei problemi, ma poteva succedere sia con la polacca sia con una persona incontrata per caso, così come erano messe quei rapporti e quelle famiglie lì, no? Diciamo che si sono incontrati un po' due immaginari, no? Perché è inutile dire che la colpa è della polacca, dell'Ucraina che arriva in Italia, no, si unisce in due, ci si fa sempre il danno, il bene in due, ecco. Diciamo che un servizio si presenta laddove c'è una richiesta, c'è un bisogno. C'è una richiesta emotiva molto forte, credo, ma insomma, ripeto, secondo me siamo poi nella normalità. dei rapporti sentimentali e sessuali. Grazie Pascale della tua, del tuo racconto storico. Marco, abbiamo Marco. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Lei ha una testimonianza vissuta di persona o vissuta da vicino di questo fenomeno? Ma più direi da osservatore. Da osservatore amo molto osservare. Cosa ha osservato? Ho osservato cose agghiaccianti sul piano proprio, diciamo, dei comportamenti di certe persone che comunque, secondo me, vedono veramente, cioè, questo tipo di matrimonio, questo tipo di soluzione come un cambiamento radicale della propria vita. Poi si ritrovano di punto in bianco abbandonati e buttati in strada. Più o meno lei sta parlando di provincia italiana? Sì, io parlo di... No, certamente questo è un problema legato anche nelle città, secondo me, però in provincia si vedono comunque... Cos'è? Nord, centro, sud? Al centro-nord, in Umbria. Ah, in Umbria, quindi vediamo, è un fenomeno nazionale, parte probabilmente da Caserta, perché era uno dei luoghi dove era più facile avere immigrazione che veniva da paesi stranieri, e poi si è diffuso. Io conosco bene l'Abruzzo, conosco l'Umbria, conosco la Lombardia, il Veneto, so che ovunque esistono favolistiche, storie, casi concreti di signori che lasciano famiglia o di ragazzi. Il tipico zitellone quarantenne, un po' tonto, brutto, che vive in famiglia, che nessuno vuole, non si è accasato, improvvisamente si accasa, ha una moglie bellissima e figli bellissimi. Qual è il lato agghiacciante che dice lei? Anche giovani ci sono comunque, non soltanto persone di mezza età, anche molto giovani. E per cosa, qual è il lato agghiacciante? Il lato agghiacciante è che, per esempio, delle persone che proprio vengono gabbate in una maniera veramente palese, insomma. Cioè dal punto di vista sentimentale vengono illusi? Totalmente, cioè per arrivare poi comunque a in qualche maniera a sottrarre i beni capitali di queste persone che magari hanno accumulato genitori con fatiche enormi, no? Io ho il classico esempio di una persona che ha un'attività commerciale, praticamente questa persona bruttarella, insomma, molto brutto, un ragazzo molto brutto, insomma, è riuscito a trovare una persona tra l'altro molto bella, di coetanea della stessa età, si sposa, provenienza ovviamente sempre il solito est. Questa persona di punto in bianco gli ha portato poi a casa il suo marito e sua figlia, dopo un anno che erano sposati. E all'inizio lui ha preso questa notizia come un evento ripilante, poi dopo successivamente si è creato, diciamo, una sorta di integrazione anche di questo tipo. Per me quello è agghiacciante, insomma. Cioè si sono messi d'accordo, alla fine hanno fatto una comune? Ma praticamente sì, perché poi comunque questo marito viene mantenuto da questa persona. Scusi, ma questo signore, ragazzo così, non credo sia stato costretto con una pistola alla tempia di accollarsi? Beh, atteggiamenti di tipo plagiatorio ci sono, secondo me. Vabbè. Cioè persone che comunque sono in grado di, in qualche maniera, di... la furbizia che hanno sviluppato di fronte al disagio. Sì, però dalle mie parti dicono, lo dico in maniera edulcorata per non irritare gli ascoltatori, diciamo, deretano che non vide mai camicia, anche quel ragazzo intanto non aveva una grande esperienza di relazioni sentimentali per ridursi a questa situazione. Sono i cosiddetti outsider dei centri piccoli, cioè quelle persone che vengono scartate dalle donne. Ecco. Sì, la maggior parte sono così, però ci sono anche casi ovviamente di persone giovani, anche di bei ragazzi, che comunque non sono... Quindi l'outsider avrà comunque avuto la sua botta di vita, poi naturalmente, ahimè, se gli è andata male, ha tutta la nostra considerazione, ma certo non la nostra commiserazione. A сейчас мы поговорим опять золотых правил. Dopo il periodo di corrispondenza a distanza, arriva il momento in cui voi e la vostra corrispondente dell'Est decidete di incontrarvi. E questo sarà il momento più intenso nella costruzione della vostra nuova relazione. Ecco 5 regole d'oro. Правило номер 1. Место встречи. 1. Dove incontrarsi. Non dimenticatevi che è molto difficile per una donna russa spostarsi in Europa occidentale. Per il primo incontro spostatevi voi in Europa dell'Est, nel suo paese. La ragazza sarà più a suo agio e più sicura, vicino ai suoi amici e alla sua famiglia. E voi le mostrerete tutto il rispetto che le portate. Правило номер 2. Что принести с собой? 2. Cosa portare con voi? Per lei pensate a portare dei piccoli regali come profumo o dei cosmetici di marca e non dimenticate di portare qualche regalo per la sua famiglia, esempio dei cioccolatini o una bottiglia di buon vino e dei giochi per i suoi bambini, se ne ha. Al vostro arrivo in Europa dell'Est compratele dei fiori, ma mai dei fiori gialli, simbolo di addio e tristezza in Europa dell'Est. E inoltre ricordate che il numero dei fiori deve essere dispari e mai 13. 800240024, parliamo di matrimoni, di rapporti affettivi, di passioni e anche, ahimè, di tradimenti tra donne dell'est e uomini italiani. Se io digito l'ho appena fatto nel motore di ricerca Google donne russe e ottengo 298.000 voci italiane, e soprattutto sono siti che permettono interazione, scambio, conoscenza e catalogazione di donne russe. In particolare questo decalogo era preso dal sito www.donnerusse.com, che è un'agenzia intermatrimoniale fondata da Marina Fedorova, che vuole dare dignità alle donne russe che non sono mercanzia in vendita. Abbiamo al telefono Natalia, che fa parte di questa agenzia. Natalia, buongiorno. Buongiorno. È russa anche lei, Natalia? Sì, sì. Però vive in Italia? Sì, esatto. Ecco, mi spiega, io ho visto il vostro sito, è un database meraviglioso in cui uno può scegliersi la donna russa per età, per peso, per dimensioni, per genere. E poi cosa fa? Fa un viaggio, la va a conoscere, la va a trovare? No, inizialmente offriamo un periodo di corrispondenza ai nostri iscritti, durante il quale si conosce bene, poi si decide l'incontro, come è stato già detto, e solo a questo punto veramente sì, consigliamo al nostro iscritto partire nella città della ragazza per le ragioni che sono state. Voi gli organizzate tutto, il posto dove vanno, si incontrano, stanno assieme, si conoscono, come succede? Sì, sì, sì, se abbiamo le richieste del nostro cliente possiamo organizzare completamente la sua permanenza trovandogli un alloggio o un autista, per dire, un interprete. Ma può accadere che poi la ragazza russa, quando lo vede, si trova delusa rispetto alla corrispondenza e dice no, guarda, non mi piace? Sì, sì, è per questo che chiediamo ai nostri iscritti essere sinceri, sempre espliciti e sinceri. Ma in quel caso cosa succede? Viene rimborsato oppure gliene trovate subito un'altra di compensazione? No, non che possiamo garantire che tutti gli incontri vadano a buon fine, però sì, c'è anche la possibilità di incontrare qualche altra ragazza direttamente in loco. Senta, ma mi può fare la tipologia dell'uomo italiano che si rivolge a un'agenzia come la vostra? Età, posizione sociale, regione italiana, più o meno? Normalmente ci sono i signori dai 35 anni, poi cioè proprio non ce l'abbiamo i ragazzi giovani, però anche in questo caso, sempre, anche se si tratta di signori più adulti, diciamo sopra i 50 anni, non scelgono mai le ragazze giovanissime, che è sempre anche sconsigliato da noi e dalla realtà che non hanno il futuro le coppie con grande differenza d'età. Poi per quanto... E questo è un bel consiglio, è inutile se tu sei attempato che scegli una ragazza giovanissima, è chiaro che poi una volta che viene in Italia si stanca di star con te. Sì, sì, è uno dei tuoi nemici da distruggere, che le ragazze russe sono interessati agli uomini molto più grandi di loro, molto più adulti. Poi per quanto riguarda l'istruzione sociale dei nostri iscritti è molto diversa, ce l'abbiamo molti professionisti, per dire avvocati, dottori, ma ce l'abbiamo anche diciamo delle persone semplicemente, per dire, un venditore ambulante, un dei poveretti, un ecco, camionista, cioè praticamente di tutte le fasce. E con questi come vi regolate? Gli fate capire poi comunque deve mantenerla una volta che viene in Italia la signora? Non è detto, come ho sentito in un intervento precedente, che la ragazza vorrà fare casalinga, non cercherà mai di riaffermarsi nel mondo lavorativo, dato che normalmente nei loro paesi sono tutte con un buon lavoro, laureate. Ecco, però per il periodo iniziale certo avrà bisogno del sostegno di suo marito per prendere il tempo, per imparare, ecco, la lingua, per trovare un non c'è lavoro. Questo problema, Natalia, che per molti uomini possa diventare un'occasione per andare, passare una vacanza, conoscere una bella donna, poi finisce lì. Vi prende un po' come agenzia di amicizia a distanza, ecco, una cosa del genere. Io vado in Russia, mi trovo una signora che ho scelto, passo con lei un bel weekend, 10 giorni di passione d'amore, poi ognuno, chi si è visto, si è visto. Normalmente controlliamo rigorosamente tutte le nostre adesioni, il che significa che un iscritto deve presentare tutti i documenti relativi al suo stato di famiglia, certificare la propria residenza e tutto ciò, il che già in partenza seleziona solo le persone che sono veramente molto serie e molto intenzionate. Grazie Natalia, abbiamo adesso due casi in conclusione, abbiamo Fabio e Alessio, entrambi hanno sposato donne dell'est. Fabio, buongiorno. Velocissimo, perché siamo in chiusura. Buongiorno anche ai radiospettatori. A lei è andata bene? A me è andata benissimo, non bene. No, così ci accusano di confermare luoghi comuni, non mi pare che sia esattamente quello che stiamo facendo. Lei dove ha conosciuto sua moglie? Io ho conosciuto mia moglie proprio su internet. Con una di queste agenzie, tipo quella che abbiamo... No, era un sito alternativo aperto, non era il sito di cui... Da dove viene sua moglie? Mia moglie arriva da Omsk, dalla Siberia profonda. Quant'è che state assieme? Siamo assieme da 4 anni e mezzo. Quindi è consolidata l'unione? Sposati con bambina. Quindi è andata bene. Benissimo, la saluto. Alessio, buongiorno. Buongiorno. Anche lei ha avuto un caso positivo? Sì, io sono sposato con una ragazza polacca da 10 anni, abbiamo già 4 figli, aspettiamo a giorni il quinto, forse addirittura è stato... pure problemi all'inizio perché la famiglia aveva dubbi, ma io penso che una donna che ne approfitta può essere sia, può capitare con tante anche italiane. Ecco, Alessio, sì. Come mai certe persone invece non hanno questa fortuna? È l'approccio, le donne non credo che abbiano una loro genetica predisposizione all'inganno. Da chi dipende, secondo lei, che esiste questa casistica così ampia, questo luogo comune, sulle donne russe si approfittano degli italiani? Forse perché ultimamente è capitato molto e certo questo fatto che uno approfitta, ma io vedo che se uno non sta bene insieme e dopo 4-5 anni che è stato insieme a una persona, quei problemi capitano anche con persone della stessa nazionalità. Vabbè, lei è contento, soddisfatto e felice, mi sembra che siamo arrivati in conclusione, un argomento molto difficile, molto complesso, molto scabroso, molto pieno di lati oscuri, però abbiamo fatto capire, per quanto ci è stato possibile, che in realtà il luogo comune è sempre più difficile a demolire, ma anche nell'ambito delle fate dell'est, e mi dice un'ascoltatrice che fata in rumeno vuol dire proprio ragazza, quindi il termine coincide, probabilmente ci sono anche i lati non proprio oscuri. A domani. Email melog@radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22:00.